Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Ancora una volta buongiorno a tutti voi, buongiorno alle 9 e 12 minuti, proprio 3 secondi fa. Tra pochissimo gli aggiornamenti sulla viabilità, sul traffico, solo un paio di minuti per anticiparvi in fondo i temi che, come dire, sono sotto gli occhi di tutti in queste ore in cui cala di fatto il silenzio elettorale, si passa dalle polemiche, dai dibattiti, dai confronti, quelli che ci sono stati, molti sul fronte napoletano, invece quelli attesi, chiesti, auspicati, ma poi non ripetuti sul fronte amministrativo milanese. Insomma, la campagna elettorale si è andata a chiudere con la serata milanese napoletana, serata di concerti, di feste, nonostante acquazzoni temporali, e questo mi riferisco a Milano. Letizia Moratti ha svelato la sua giunta, ha parlato, ha annunciato quindi un Castelli vice sindaco, quindi un cambio di fatto nella compagine, nella squadra per la guida della giunta milanese. Pisapia dice invece è arrivato il nostro tempo. Queste sono state le ultime battute, le ultime frasi di un confronto che porta 15 giorni dopo le sorprese del primo turno dei ballottaggi appunto al voto decisivo a Milano e a Napoli. A questo proposito vi ricordo fin d'ora gli appuntamenti di lunedì. Seguiremo qui su Radio 24 come sempre in diretta tutti gli aggiornamenti. Ci sarà dunque il tempo per sapere l'esito, per commentarlo, per partecipare qui in diretta naturalmente su Radio 24. Ma questa settimana ha anche sollevato altri temi da quelli della politica nazionale. È stata la settimana del G8 in Francia, a Deauville, un G8 dove al di là dei riflessi invece di politica interna ancora una volta è stato in qualche modo quella del varo della campagna dei grandi finanziamenti europei, del piano Marshall come è già stato ribattezzato, per il sud, per questa primavera araba che i leader, a cominciare da Barack Obama, da Sarkozy e da altri, insomma, hanno deciso di sostenere con le loro parole, ma anche con i fatti. E poi è stata la settimana dell'arresto di Ratko Mladic. Il tempo passa rapidamente, a volte la memoria si perde. Beh, una figura centrale anche nella storia dell'Europa, una figura oscura, una figura maligna senz'altro nella storia di un'Europa che ha vissuto 20 anni fa una guerra civile e una guerra di aggressione lacerante, che è proprio in qualche modo l'opposto, la contraddizione di quella che la storia europea, dell'Unione Europea invece ha portato a tutti noi, cioè molti anni di pace. Punto e a capo. U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić. Quella che sentite è la voce di Boris Tadić, il presidente della Serbia, figlio di Ljuba, un filosofo nato a Sarajevo in Bosnia-Erzegovina. I suoi nonni, tra l'altro, furono uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale dagli Ustascia, al movimento nazionalista filofascista croato di Ante Pavelic. Ecco, questo l'annuncio che ci porta alla notizia con cui apriamo questa seconda parte e che Elena Ragusin ci riepiloga nel suo servizio. La procedura per l'estradizione dell'ex generale Ratko Mladic e la sua consegna al Tribunale Internazionale dell'Aia sembra essere partita in salita. Ieri pomeriggio, a poche ore dalla cattura, l'imputato di genocidio e crimini di guerra era stato condotto in un'aula del Tribunale di Belgrado per rispondere alle domande dei giudici. L'uomo che dal 1992 al 95 aveva terrorizzato la popolazione musulmana in Bosnia appariva visibilmente invecchiato e in precarie condizioni di salute. Instabile sulle gambe e sguardo assente, sembrava non capire cosa gli stesse dicendo il giudice, che dopo pochi minuti sospendeva l'interrogatorio su istanza del difensore di Mladic. L'udienza è stata aggiornata oggi, quando le opposizioni ultranazionaliste, secondo i loro annunci, dovrebbero dare inizio a manifestazioni di protesta contro la consegna di Ratko Mladic al Tribunale dell'Aia. Elena Ragusin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un Mladic dunque invecchiato, invecchiato come in fondo è stato nella nostra memoria il ricordo degli eventi di vent'anni fa. Vent'anni fa, quando Mladic era di stanza in Kosovo come comandante del corpo Pristina, che aveva il compito proprio di controllare la frontiera con l'Albania, in quell'anno sarebbe poi diventato il comandante responsabile delle operazioni dell'esercito jugoslavo in Krajina, quindi la provincia della Croazia, da dove di fatto partirono i moti di separazione della parte croata, dunque dallo Stato jugoslavo. Una storia lunga, una storia drammatica, quella del generale Mladic, che si lega indissolubilmente alla vicenda di Srebrenica. L'arresto di Mladic non è stato accolto da festeggiamenti tra le donne di Srebrenica. Ci racconta così Azra Ibrahimovic, che aveva 13 anni quando fu costretta a scappare da Srebrenica. Il 9 luglio 95 i serbi le uccisero il padre e il fratello, assieme ad altri 8.000 morti accertati. Tutto il periodo di questi 16 anni si sapeva dove è Mladic e che non c'era la volontà politica di arrestarlo. La storia di Srebrenica è dunque dolorosa ogni volta che la si riapre, come quando nel 2007 la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia riconobbe quanto avvenuto nell'enclave come genocidio. 3 anni dopo il Parlamento della Serbia approvò una risoluzione in cui condannò il massacro, ma non lo definì genocidio. Nel 2008 Carla Del Ponte, procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, ci descriveva uno scenario in cui il governo serbo aveva il peso di non stare collaborando davvero alla cattura di Mladic. Naturalmente mi aspetto che l'Unione Europea continui a sospendere i negoziati alla Serbia fin tanto che ci arrestano e ci danno i latitani. Senta, procuratore, lei tempo fa disse di sentire attorno a sé una sorta di calo dell'interesse da parte di ministri e presidenti appunto dei paesi dell'Unione Europea rispetto alla cattura di Mladic. E perché? Perché si sente che l'Unione Europea sta esaminando la situazione dicendo riprendiamo i negoziati con la Serbia. Oggi la Del Ponte aggiunge che il fatto che l'arresto arrivi nel giorno della visita in Serbia dell'alto rappresentante dell'Unione Europea Catherine Ashton non è una coincidenza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andrea Rossini dell'Osservatorio dei Balcani. Allora, perché adesso questo arresto? Ma io credo che l'arresto avvenga adesso perché la nuova Serbia di Boris Tadic in qualche modo è pronta per affrontare il passato, per chiudere definitivamente i conti con quella vecchia Serbia che tanti lutti ha portato alla regione balcanica negli anni 90 e oltre. Quella vecchia Serbia, con la vecchia Serbia mi riferisco a quella nebulosa fatta di militari, di servizi segreti, di criminalità organizzata, responsabile ad esempio dell'assassinio del premier Zoran Djindjic nel 2003 e della fine di quella breve stagione della primavera serba che era seguita alla caduta, all'arresto, all'estradizione di Slobodan Milošević. Ci sono voluti diversi anni e ci è voluto una certa cautela, io credo, giustamente anche da parte dell'attuale governo serbo, ma in questo momento Boris Tadic si è sentito forte abbastanza per annunciare al mondo insomma questa l'avvenuta cattura, la fine della latitanza del super ricercato del tribunale dell'Aia. Da un lato sembrano passati un'infinità di anni, effettivamente era come un'infezione quella nazionalista che aveva preso fino alla radice quella che era la società jugoslava negli ultimi anni della sua esistenza. Poi gli anni appunto corrono, si tende a dimenticare, la memoria è un elemento centrale, ne parleremo ancora tra un momento. Mi vorrei però concludere con Andrea Rossini e col lavoro che fa invece l'Osservatorio dei Balcani, dove appunto la memoria di questi eventi è stata conservata nel corso di questi anni attraverso il lavoro di giornalisti come appunto Andrea. Sì, L'Osservatorio Balcani e Caucaso è un gruppo di lavoro composto da diversi giornalisti e ricercatori esperti d'area, ognuno con competenze specifiche appunto sui Balcani e sul Caucaso. Noi siamo nati ai tempi del conflitto in Kosovo proprio per cercare di offrire un'informazione su questi territori che fosse sganciata dalle emergenze, e ci basiamo sulla stabile collaborazione con una rete di corrispondenti locali. Noi operiamo dal Trentino perché la nostra sede è a Rovereto, siamo parte della Fondazione Campana dei Caduti, che è un ente morale che istituzionalmente si occupa di pace e diritti umani, e siamo sostenuti, godiamo del sostegno della provincia autonoma di Trento e del comune di Rovereto. Poi naturalmente lavoriamo anche sulla progettazione europea e sul fundraising per tenere in vita questo centro studi che appunto ormai ha più di 10 anni di vita. Grazie dunque ad Andrea Rossini. Ricordo, per approfondire anche questi temi, il sito balcanicaucaso.org, dove trovate una massa importante di informazioni, di aggiornamenti, ovviamente sui Balcani, sul Caucaso, quelle parti dell'Oriente, dei confini, nel caso del Caucaso, d'Europa, che rimangono a lungo sullo sfondo fino a quando non esplodono tragedie enormi come quella di cui il generale Mladic è stato senz'altro uno dei protagonisti. E di memoria e di tempo che passa. Abbiamo parlato anche all'inizio di questa settimana, proprio nelle prime ore, era lunedì, Alessandro Milan stava conducendo un dibattito sulle dichiarazioni relative ad Adolf Hitler del regista danese Lars von Trier. Dichiarazioni che poi avevano spinto l'organizzazione a dichiarare il regista danese persona non grata. Ecco, c'è un momento del dibattito che vi vorrei fare risentire. Si parte da un ascoltatore, poi interviene il deputato Emanuele Fiano, il cui padre è testimone da anni della Shoah vista dall'Italia, subita dagli italiani di religione ebraica. Sentiamolo. La Shoah è stata una tragedia per il popolo ebraico, ma hanno anche un credito illimitato, mi sembra, perché non si può assolutamente dire niente, perché come si tocca l'argomento si finisce nel torto. Eccola lì dove la volevo far arrivare. Grazie Corrado da Prato. Avete un credito illimitato, onorevole Fiano, per cui non si può parlare di questa cosa? Con la storia? Questo è un cliché che torna. Noi non abbiamo nessun credito illimitato, abbiamo imparato che la storia va raccontata bene perché non succede ad altri, cosa che è già successa peraltro. Io non a caso ho citato il Ruanda. Io invito l'amico che ha telefonato a pensare cosa sarebbe successo. Intanto, cosa sarebbe successo se Nanni Moretti avesse detto, io dico Nanni Moretti per dire, sì, il nostro italiano, ecco. Un regista famoso che va a Cannes, italiano, avesse detto la Germania è per noi italiani un dito nel culo, per usare l'espressione di Lars von Trier, e lei pensi se i giornali tedeschi avrebbero scritto qualcosa o meno, se non si sarebbero arrabbiati. Ma in più, se questa frase fosse venuta dopo aver detto sì, ho una certa simpatia per gli sterminatori del popolo ruandese, o per gli esempi che vi ho fatto, del popolo armeno, eccetera. E c'è anche da dire che non c'è nessun credito illimitato, ma per fortuna gli europei hanno imparato. E quella cosa terribile che è stata la Shoah, che ricordo e ripeto, non ha colpito solo gli ebrei, diciamo, ma per gli ebrei è stata la parte maggiore, è nata all'interno della cultura, della migliore cultura europea, quella tedesca, per cui gli europei si sono vaccinati sul fatto che bisogna stare attenti, perché non è che quella cosa è nata in un paese sconosciuto. Sì. La cultura di un posto molto evoluto può torcersi verso il massimo del male. No, è nata tra di noi. Punto e a capo. Bisogna stare attenti sempre. Ci siamo lasciati in qualche modo a Cannes, adesso risaliamo attraverso la Francia, proseguiamo da Deauville, che è la località balneare della Normandia, è stata la sede del G8 che si è chiuso ieri con un impegno materiale in favore della primavera araba. Ce sarà 1 miliardo Un pacchetto da 40 miliardi per la primavera araba con il lancio del partenariato di Deauville e una determinazione a chiudere presto la partita libica. Cala il sipario sulla G8 francese che ha messo al centro della discussione le rivolte in Nord Africa. Gli otto grandi lasciano la città costiera con la promessa di un pacchetto complessivo multimiliardario ancora da definire però nei tempi e nelle modalità. Nella dichiarazione finale si accenna a un impegno finanziario delle banche multilaterali per lo sviluppo pari a oltre 20 miliardi, di cui 3 miliardi e mezzo provenienti dalla BEI destinati a Tunisia ed Egitto. Ma la cifra potrebbe crescere con i paesi del Golfo che dovrebbero aggiungere altri 10 miliardi insieme a 2 miliardi dagli Stati Uniti e 7 complessivi dall'Europa. Il G8 mette ulteriormente con le spalle al muro Muammar Gheddafi intimandoli di lasciare la Libia, decisiva al proposito la svolta della Russia che ha sottoscritto il documento dicendosi pronta a mediare. Nicolas Sarkozy ha annunciato una sua prossima visita a Bengasi insieme al premier inglese David Cameron. Il G8 ha poi espresso un forte sostegno alla visione di Barack Obama sui negoziati israelo-palestinesi. Sul fronte economico la priorità resta la creazione di impiego sull'onda di una crescita che si sta rafforzando ma sulla quale permangono rischi. E se la nomina della francese Christine Lagarde alla guida dell'FMI sembra vicinissima dopo questo summit, resta in primo piano la crisi greca con l'Europa che chiede più tempo agli Stati Uniti per risolverla. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24. Punto e a capo. Il nostro diario della settimana che si va a concludere riparte da Barack Obama. Il viaggio dunque prosegue, quello del presidente degli Stati Uniti su Varsavia. Prima aveva fatto tappa a Londra, dove non aveva solo giocato a ping pong con il primo ministro britannico, ma gli era stato riconosciuto l'onore di un discorso a Westminster, un palco riservato a pochissimi leader mondiali. Mario Platero ci racconta tutto. I am told that the last three speakers here have been the Pope, Her Majesty the Queen and Nelson Mandela, which is either a very high bar or the beginning of a very funny joke. Avete sentito il presidente americano? Scherza in questo caso, scherza anche forse per sdrammatizzare all'inizio di questo suo discorso un evento davvero straordinario sul piano coreografico. Finora è capitato solo a pochi leader in un secolo di essere invitati a Westminster davanti al Parlamento britannico riunito, e dunque lo stesso Obama, come avete sentito, ha scherzato su questo e ha detto, dice gli ultimi tre sono stati la regina Elisabetta, Nelson Mandela e Papa Benedetto XVI. E poi subito dopo aggiunge, o per me la barra è altissima o forse questo è solo l'inizio di una barzelletta divertente. Ecco, la sala naturalmente è scoppiata a ridere ed è stato un modo per rompere il ghiaccio nella solennità del momento. Ma vorrei farvi ascoltare un altro passaggio del discorso del presidente, secondo me molto molto significativo. The time for our leadership is now. It was the United States and the United Kingdom and our democratic allies that shaped a world in which new nations could emerge. And even as more nations take on the responsibilities of global leadership, our alliance will remain indispensable to the goal of a century that is more peaceful, more prosperous, and more just. Punto e a capo. L'Istat dice che un italiano su quattro è a rischio povertà. Io considero discutibile questa rappresentazione. Così il commento del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che durante la presentazione di un rapporto alla Corte dei Conti chiede alla platea: alzino le mani quanti di voi sono poveri. Tremonti non nega che ci siano situazioni di difficoltà nel paese, ma complessivamente dice la ricchezza in Italia non è scesa in questo decennio, anzi è salita. Questo risulta dalle statistiche ufficiali, dice il ministro. Ora noi invece sentiamo Enrico Giovannini, che è ordinario di statistica economica all'Università di Roma, Tor Vergata. È stato dal 2001 chief statistician, cioè statistico capo presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE di Parigi, e che dal luglio del 2009 è il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat appunto. Lo sentiamo sul tema di cui appunto ha fatto discutere il ministro, ma non solo, ospite di Sebastiano Barisoni a Focus Economia. In realtà è un appello a tutto il paese, non unicamente ai politici, perché Si è aumentata, ad esempio, fortemente la penetrazione di merci estere sui nostri mercati in settori come il legno, la gomma, l'elettronica, i mezzi di trasporto e così via, e perché evidentemente i produttori italiani non riescono ad offrire condizioni di qualità o di prezzo adeguate per fronteggiare questa concorrenza. Se soltanto il 50% delle imprese italiane esportatrici ha recuperato i livelli delle esportazioni prima della crisi, vuol dire che in alcuni settori si soffre ancora e quindi è necessario aumentare lo sforzo in questa direzione. Se nonostante il rimbalzo della crisi siamo tornati ai livelli della produttività dell'anno 2000, dobbiamo riconoscere che la produttività non è che si fa a Roma, nel Parlamento o nelle stanze del governo, si fa sui luoghi di lavoro. Quindi evidentemente abbiamo bisogno di accelerare tutti noi, anche come lavoratori, l'impegno per essere più produttivi e per essere in qualche modo capaci di mettere da parte risorse per il futuro. Mi faccia capire una cosa, Presidente Giovannini. È vero, la produttività non l'ha fatta il governo con un decreto, nessun governo, né di destra né di sinistra, lo dico a chi continua, complice il clima delle amministrative, buttare tutto di destra, di sinistra. Però i governi, quale che sia il colore, possono fare le riforme. Questo può essere un appello fatto alla classe politica, lasciamo stare il colore, perché se tu hai forza politica riesci a imporre alle singole categorie, alle singole lobby, ai singoli portatori di interesse una riforma complessiva, se no sei vittima, diciamo, del consenso a breve e di chi ha più potere dentro il Parlamento, quindi avvocati, giornalisti, notai e quant'altro. Questo è certamente vero, e io nella sintesi ho fatto notare come in Italia abbiamo un numero di soggetti, imprese, pubbliche amministrazioni, ma anche società civile, molto alto rispetto a quelle di altri paesi, perché abbiamo soprattutto la piccola impresa e così via. Adesso faccio un esempio: se in Germania 200 persone decidono di fare una certa cosa, per esempio investire, parlo delle grandi imprese francesi, questo fa muovere tutto il sistema, mentre invece in Italia abbiamo bisogno di coordinare le decisioni di molte più persone. In questo senso gli indicatori di tendenza, cioè dove vogliamo arrivare, quali sono i messaggi che come paese vogliamo dare a noi stessi, sono estremamente importanti, altrimenti abbiamo messaggi contraddittori che non vengono colti da tutti coloro i quali potrebbero operare nella stessa direzione. Il tema della crescita è stato al centro, il vero e proprio filo rosso che lega le 38 pagine della relazione della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia all'Assemblea Pubblica di giovedì scorso, con la delusione per le riforme non fatte, con un nuovo pressing per metterle al centro dell'agenda. Se il risultato elettorale convincesse il governo e la maggioranza di avere ancora davanti a sé 2 anni di lavoro. Il servizio di Vincenzo Miglietta. Ultima assemblea annuale sotto la sua guida ieri per Emma Marcegaglia. Momento di bilanci dunque, con una rivendicazione: l'aver fatto sistema nell'interesse di tutti gli associati e non di una sola azienda, chiaro il riferimento a Fiat. Questa nostra Confindustria in questi 3 anni ha fatto sulle regole sindacali molto più di quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni, ma senza strappi improvvisi che fanno male al sistema delle imprese e al paese. Quindi l'analisi sullo stato del paese, il deficit di crescita e di competitività, il paese arretra e la politica pensa ad altro, dice la Presidente di Confindustria, che avverte. In un momento così noi saremo pronti a batterci per l'Italia, anche fuori dalle nostre imprese, con tutta la nostra energia. Coinvolge tutti, i leader degli industriali, per la situazione del paese, maggioranza, opposizione, parla di delusione per le riforme mancate, di uno Stato che fa troppe cose e male. Il decennio perduto alle nostre spalle viene da divisioni e lacerazioni interne a ciascuno dei due poli della politica. Riforma fiscale di infrastrutture, semplificazioni e liberalizzazioni, queste le priorità da affrontare per il governo, ricorda la Marcegaglia, nei 2 anni ancora di legislatura. Poi una scelta che deve rendere orgogliosa l'Italia intera, dice il leader degli industriali Mario Draghi alla presidenza della BCE. Infine il ruolo civile dell'impresa, con il ringraziamento del numero uno di Confindustria a Lobello e Montante, rispettivamente presidenti di Confindustria Sicilia e delegato nazionale per la legalità. Entrambi, spiega la Marcegaglia, in prima linea insieme con gli imprenditori del Mezzogiorno contro la criminalità. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 38 pagine, molti temi, a quello della legalità. Il direttore di Radio 24 Fabio Tamburini ha dedicato ieri il suo editoriale. C'è un passaggio della relazione del presidente della Confindustria Emma Marcegaglia che rischia di avere meno risalto rispetto ai numerosi argomenti affrontati e che invece merita di essere sottolineato. La Confindustria, è scritto a pagina 35 della relazione, ha posto la battaglia per la legalità e contro le mafie al centro di una svolta concreta e statutaria, non più chiedendo solo allo Stato ma cacciando i collusi, a cominciare dal Sud, che si è mosso per primo e ha dato l'esempio. Ora bisogna seguirlo anche al nord. Queste ultime parole sono di particolare rilevanza. Le inchieste condotte dalle procure di Reggio Calabria e di Milano confermano che le mafie hanno acquisito posizioni importanti nel nord Italia, in Lombardia, ma anche in Piemonte e nel Veneto. In queste regioni si gioca il destino della lotta contro le mafie. Occorre accendere i riflettori su ogni omertà o, peggio, su coperture e connivenze. Radio 24 continuerà a farlo. Legalità dunque, e vi segnalo un appuntamento su questo tema questa sera alle 19.30, 30 minuti in cronaca. Abbiamo ospite il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Michele Prestipino. Parleremo di Milano, di Expo, della sfida del prossimo sindaco, chiunque sia, per evitare che appunto questa grande torta, questo grande progetto diventi poi preda delle mafie. Punto e a capo. Accidenti, è pesante, mi sento di pesare 200-300 kg, mi fanno male tutti i muscoli, mi fanno male i muscoli del collo solo per tenere la testa alta, mi fa male l'osso sacro per stare seduto, mi sembra di aver bevuto un paio di bottiglie di vino, non riesco a camminare dritto, sto a malapena in piedi, insomma ci sarà un po' di lavoro da fare per rimettermi in piedi, e devo anche cambiare un pochettino le prospettive. Ero abituato a svolazzare sopra le cose per andare da un punto all'altro e qui invece ci devo girare attorno, quindi niente, mi sto riabituando a questa gravità, ma devo dire che i sapori e i colori che ci sono qui, sono uscito questa mattina per andare in una delle nostre cliniche, sono rimasto un attimino al sole, è assolutamente stupendo sentire l'aria sulla faccia e il sole che ti scalda, è molto bello. E questa settimana è tornato a casa sul pianeta Terra, pensate, fa un certo effetto a dirlo, però è la verità. Paolo Nespoli, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, ha trascorso in orbita quasi 6 mesi. In compagnia, certo, i due membri del suo equipaggio, l'astronauta americana Katie Coleman, il comandante russo, poi c'è stato anche un discreto via vai di visite con gli ultimi shuttle, con le Soyuz. Tant'è, l'avventura si è conclusa, vi segnalo a questo proposito, domani mattina alle 8.15 l'intervista integrale, 10 minuti per raccontare 6 mesi di emozione nello spazio. Punto e a capo. Ancora un buongiorno, qualche minuto insieme questa mattina con Roberto Scaltritti in regia, Gigi Donelli al microfono, qui per rivedere un po' i fatti, gli eventi della settimana. Abbiamo sentito Paolo Nespoli raccontare, anticipare di fatto il racconto dell'esperienza di una vita, e ora abbiamo un altro italiano che racconta invece la sfida del giorno, di un giorno, di questo giorno, e mi riferisco alla finale di Champions che si gioca questa sera a Londra, stadio di Wembley. Chi vincerà qui è un po' come i ballottaggi, è tutto un fine settimana di sfide più o meno decisive tra Barcellona e Manchester United. Dario Ricci l'ha chiesto al tecnico dell'altro Manchester, il City, Roberto Mancini. Sembra favorito il Barcellona, ma giocandosi la partita a Wembley in Inghilterra credo che sarà un po' più difficile, insomma, rispetto magari a Roma 3 anni fa. Vista dalla panchina, che sfida si aspetta? Quale può essere la mossa a sorpresa, oppure sono due squadre che si conoscono talmente bene che conterà molto di più la prestazione dei singoli di qualsiasi quadro tattico? Beh, sicuramente la prestazione dei singoli conterà, perché poi da una parte c'è Messi, dall'altra c'è Rune. Io credo che questi due siano giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento, però poi allo stesso tempo le due squadre sono squadre vere in tutti i sensi. Da citizen tifa Barça? No, no, no, no, assolutamente io sono allenatore del City, ma guarderò la partita da sportivo, da tifoso, quindi che vinca migliore. Direi che quel gol in rovesciata di Rooney che avete preso nell'ultimo derby, però forse le ha strappato un applauso anche a lei, che pure quella rete l'ha subita. Sì, beh, Rooney ha preso un gran gol. Questi sono i gol che fanno i campioni e che decidono le partite, quindi anche per questo credo che poi nella finale di Wembley saranno decisivi loro. L'intervista integrale con Roberto Mancini, realizzata da Dario Ricci, andrà in onda domani, domenica alle 14.30, nel corso di A Bordo Campo. Punto e a capo. La scorsa settimana abbiamo fatto una vera e propria scorpacciata di cinema, parlando di Cannes non solo. Oggi il nostro spazio per la cultura e gli spettacoli si dedica alla musica, partendo da Francesco Baccini, che da mesi gira l'Italia con il suo Baccini Canta Tenco, concerto che gli eredi del cantautore scomparso nel 67 hanno definito un viaggio emozionante, importante per trasmettere anche alle nuove generazioni l'opera e l'impegno di Luigi Tenco. Lunedì sera Francesco Baccini sarà allo Smeraldo di Milano. Marta Cagnola lo ha intervistato per noi. Io faccio una cosa in maniera molto naturale, non è un concerto di cover. Io ho preso queste canzoni insieme a Armando Corsi, le abbiamo rivestite con delle sonorità del terzo millennio, quindi gli abbiamo cambiato il vestito, gli abbiamo tolto questi vestiti vecchi degli anni 60, perché sai, Tenco, a differenza di tutti gli altri cantautori, dove Andrea Paoli, non ha potuto negli anni rincidere le proprie canzoni, riaggiornarle. Pensiamo soltanto ad Andrea con la PFM, cosa ha fatto. E quindi quando sentiamo Luigi Tenco sentiamo quelle vecchie incisioni degli anni 60, con arrangiamenti a volte anche fuori luogo, con sonorità che oggi sono veramente in bianco e nero. E allora con Armando Corsi abbiamo deciso di mettere a Tenco un jeans e una maglietta, facendo degli arrangiamenti minimalisti dove si passa dal jazz al rock, alla ballata, alla bossa nova, e quindi è uno spettacolo anche molto vario. Senti, che pubblico hai incontrato in queste date? Ma molto variegato, ci sono i tenchiani, cioè proprio i fan di Tenco, anche già ormai di una certa età, perché chiaramente quelli che sono cresciuti con le canzoni di Tenco, e poi ci sono anche ragazzini, giovani, cioè un po' di tutta l'età, perché comunque Tenco è un mito, Tenco è il primo cantautore italiano. Chiaramente si parla poco di Tenco, si ascolta poco, anche proprio per il fatto che le sue canzoni oggi veramente le radio le suonano molto poco, però Tenco ha lasciato un segno indelebile nella storia della canzone italiana, e con questo spettacolo io proprio mi sono posto il fatto di riaggiornare queste canzoni. Tra l'altro hanno dei testi che sono, alcune canzoni di Tenco hanno dei testi che sono scritte ieri mattina, quindi vuol dire che Luigi Tenco era veramente avanti rispetto ai propri anni, o forse l'Italia non si è mossa neanche più di tanto. Interrogativi di Francesco Baccini sull'Italia, chissà. Da un cantautore affermato appunto come lui che rivisita grandi classici, passiamo invece a un giovane che sta conquistando letteralmente l'Europa, quindi una buona notizia. Dopo aver vinto Sanremo Giovani ha stupito portando l'Italia al secondo posto all'Eurovision Song Contest, ma l'ultima bella notizia per Rafael Gualazzi è l'annuncio che ha vinto anche il premio della giuria tecnica del Festival della Canzone Europea. Sicuramente è una bella soddisfazione, io posso soltanto essere lusingato. Noi abbiamo vissuto questa esperienza come, diciamo, formativa per la nostra professione, ma allo stesso tempo anche come un'esperienza di confronto, mai con un'ottica competitiva, e poi abbiamo ottenuto questo risultato. Quest'altro attestato di stima sicuramente ci fa molto piacere. Tu sembravi molto divertito, cioè un po' distaccato e un po' divertito quando arrivavano i voti da Düsseldorf, perché eri partito basso e poi mano a mano questa cavalcata sembravi il più tranquillo e anche con un sorriso un po' sornione. Com'eri davvero? Ma sinceramente credo di essere come sono, nel senso in realtà era un divertimento proprio perché, diciamo, il momento di responsabilità artistica più importante è proprio quello della performance. Una volta, diciamo, finita questa fase, quando eravamo in attesa di questi voti, per me era come un gioco, cioè non credo nelle competizioni, quindi cioè, per me era un divertimento praticamente. Tu dici la responsabilità artistica nell'esibizione di quel momento, una responsabilità artistica in un certo senso anche amplificata dal fatto che in quel momento non solo difendevi i colori dell'Italia, ma portavi la tua musica in tutta Europa. È un passo importantissimo. Diciamo che ho cercato di sfruttare nel senso positivo e costruttivo del termine questo momento di grande visibilità per promuovere, diciamo, il mio progetto su cui ho lavorato un mesetto in studio, insomma, è stato come produttore artistico dello stesso progetto, arrangiatore, compositore, pianista, cantante, insomma, ho avuto parecchio da fare. E sia come, diciamo, cioè spero che questo progetto Reality and Fantasy, che è uscito il 16 febbraio ed è già distribuito anche in Germania, probabilmente sarà distribuito fra un paio di settimane in Inghilterra e già distribuito in Francia, spero che possa comunque, diciamo, servire da canale comunicativo per tutto il mondo del jazz e tutta quella che è la musica jazz, che reputo essere l'origine di tutta la musica moderna. Ecco che siamo arrivati anche oggi alla conclusione, tra qualche minuto GR24, poi l'appuntamento consueto del sabato dopo le 10 con l'Altra Europa per parlare di giovani europei e non solo. Da parte mia e da Roberto Scaltritti in regia non mi resta che augurarvi un'ottima giornata e darvi appuntamento come di consueto per Punto a Capo a sabato prossimo. A presto!